Avendo visto le halachot che riguardano lo Shema e le berachot dello Shema, ora iniziamo a imparare qualcosa riguardante la Amidah. Innanzitutto, Tutti ci vado. sì, bravo. Innanzitutto parliamo di qual è il momento in cui la mattina scatta l'obbligo. È il miglior momento in cui pregare l'Amidah. Allora l'Halakha insegna: Zman tefilat ha-shachar, il momento appropriato per la tefilah della mattina, e stiamo parlando nello specifico della Amidah, Sheyatchil im ha-netzach ha-ma, è di iniziare con, che l'inizio dell'Amidah coincidi con il Hanetzach Hamah, cioè il sorgere del sole. Questa cosa è anche allusa in un versetto. Il versetto non è la fonte di questa halakha, ma ci si appoggia a questo versetto che dice, che dichtiv, Yira'ucha im Shamesh. C'è scritto nel Teilim, nel Salmo 72, ti venereranno con il sole, cioè come si alza il sole, noi iniziamo a servire Hashem attraverso la tefilah. Ubbediavad, a posteriori, im hitpallel leachar she'ala amud ha-shachar, se la persona ha pregato, non ha aspettato che sorga il sole, ha pregato subito dopo la amud ha-shachar, cioè lo spuntare dell'alba, allora yatzah, comunque è uscito d'obbligo della mitzvah, anche se ha pregato prima del sorgere del sole, ma dopo lo spuntare dell'alba, non prima. Questa cosa può essere fatta in un caso di forza maggiore in cui non si può aspettare fino alla Netzach Hamah, fino al sorgere del sole, ci si appoggia alla possibilità di iniziare la tefilah già da prima. In molti luoghi in cui, anche a Roma, diciamo, in certi momenti dell'anno il sorgere del sole non è fino alle 7:30 circa. Quindi noi, diciamo, ci stiamo, però diversi templi non sempre ci stanno, o in altre parti, Francia, fa buio. oppure in altri posti si va più al nord e può sorgere il sole più tardi ancora. Ci si appoggia a questo per pregare prima. Venimshach zemanah, e fino a quando è il periodo della tefilah, fino a quando si protrae questo tempo dell'obbligo dell'Amidah, ad Shelish Hayom, fino al primo terzo della giornata, come abbiamo spiegato già, lo Shema è fino a 4 Terza, ore, quarta ora fino alla quarta ora, e questo è un terzo della giornata, sono giusto, due orari scusa, hai diversi. ragione. Con le Questo è più berachot non è tardi. quarta ora, Quarta. cioè quella Sì. terza ora con lo Shema. Terza ora con lo Shema, con le berachot fino alla quarta ora. E Giusto. quindi uguale. Terzo della giornata su 12 No, c'è un'ora in qua. più No. la metà, più o meno. Terza Sì, giornata ma come? come le berachot, uguale. Le berachot dello Shema che le puoi dire anche dopo, sì. Sì. Però quello già non stai più nell'obbligo dello Shema. Leggi lo Shema come leggi qualsiasi cosa Sì, della Torah, abbiamo però detto, un vero? terzo della giornata sono 4 ore. Sì. Però l'obbligo dello Shema Sì, è sono la prima, è terza la ora, terza ora. sì. Ve'asur leitacher yoter. E è vietato tardare di più rispetto a questo orario, per ciò che riguarda l'Amidah. Poi aggiunge, se invece non ha fatto in tempo la persona anche entro questo orario qui, o mikol makom, tuttavia, bedi avad, a posteriori, di nuovo, im avar, se la persona ha trasgredito letteralmente, cioè è andata oltre, veitacher yoter, e si è tardata ulteriormente a filu bemesid, anche se lo avesse fatto appositamente, quindi ha intenzionalmente non ha fatto tefilà, no, non voglio fare tefilà, finché è passato questo orario, e poi ha cambiato idea che vuole fare tefilà, yachol lehitpallel ad chatzot hayom, ha tempo fino al mezzogiorno alachico per fare ancora la tefilà di Shacharit, di Amidah di Shacharit. Afalpi, nonostante che se facesse questo, en lo sechar ki tfilah bismanah, non ha la stessa ricompensa che come quando si farebbe la tefilà nel suo momento, bismannà nel suo momento, però tuttavia sechar tefilà mihu ika, comunque c'è una ricompensa di tefilà. La tefilà ha una validità e c'è anche una ricompensa per aver fatto tefilà, ma non la ricompensa di aver fatto tefilà nel suo tempo. Capito la differenza? C'è Una ricompensa diversa. la ricompensa di aver fatto tefilà, in altre parole, come dire, la tefilà ha una validità, non tanto quanto ci Chiaro. sarebbe se fosse una tefilà nel momento Una giusto, ricompensa del ma è secondo comunque tempo. valido anche fino a Chatzot, fino a mezzogiorno, mezzogiorno alachico. Avar bemezidat chatzot hayom velo itpallel, se invece è arrivato anche a mezzogiorno intenzionalmente senza aver pregato, allora a quel punto en lo od tashlumin. A quel punto non c'è nessun modo di rimediare. Ve'alav ne'emar, e riguardo a questo possiamo applicare quanto è detto nel versetto del Coelet, Ecclesiaste, me'uvat lo yuchal litkon. Ovvero, ciò che è storto non può essere raddrizzato. Lo applichiamo a casi in cui non c'è un modo di rimediare, lo applichiamo anche qui. Vuol dire se la persona volutamente non ha pregato ed è passato il tempo, poi non c'è possibilità di rimediare. Ha perso quella tefila. A differenza della persona che non volontariamente, non intenzionalmente, ha perso un momento di una tefila, allora in quel caso, che non è più ben mezid, volontariamente, ma intenzionalmente, bensì beshogeg, involontariamente, non volutamente, allora in quel caso può rimediare facendo, quando arriva il tempo della prossima tefilà, una seconda volta Ancora l'Amidà. Vuol dire se per sbaglio non ha fatto Shacharit, non intenzionalmente, e arriva l'orario di Mincha, allora durante Mincha fa un'Amidà per Mincha, poi aspetta qualche momento e rifà di nuovo un'altra Amidah per rimediare quella di Shacharit. Questo solo se ha mancato la tefilà precedente involontariamente. E solo se la becca alla prossima tefilà. Se si ricorda, se ha fatto Mincha e poi arriva il tempo di Arvit e dice: Aia, non ho fatto Shacharit. A quel punto non può rifare l'Amidah di Arvit per una tefilà che sono due tefilot fa. E se si ricorda che ha finito Mica, ma non è ancora ora di Arvit, però l'ha finita tutta Mica. Va bene, non è un problema. Quindi Amidah vuol dire finire Mincha, poi il resto è aggiunto. può dire la seconda Amida Sì, questo è considerato lo stesso anche da caso. sola fra Mica e Arvit, per Questo è esempio. considerato lo stesso caso di quello che dicevo prima. Non è che ci deve essere un attaccamento tra le due Amidot, anzi, è bene che non siano troppo attaccate. Perché non è considerato bello che uno finisce l'Amidah e subito rifà un'altra Amidah, è come che se la prima non andava bene. Quindi, anzi, come dicevo, Meglio. bisogna aspettare un po'. E poi rifare l'Amidah, ma comunque per ciò che riguarda Mincha, avendo fatto l'Amidah è già considerata conclusa, anche se poi c'è magari il Tachanun, non le Aspettare un sabbia. po', pensavo fosse qualche minuto Sì, massimo. normalmente sì, però anche se si ricorda dopo può rimediare prima di arrivare all'Arvit. Allora, scusa, quando dici che si può ripetere la midà, no? Sì? C'è un esempio che può essere il fatto di dimenticarsi, come si può dire? Nel senso, se uno è impegnato Come può essere? e li perde Sì, scatenatamente, una cosa così. esatto, non volutamente. Vuol dire, per esempio, sta lavorando, è inverno, ok? Il tramonto è presto, 4 e mezza il tramonto, per esempio. Alza gli occhi, oh mannaggia, non ho fatto Mincha. Può È un caso questo, così. capitare. Non è una cosa così strana. Forse per Shacharit è più difficile, perché magari uno la mattina ha una Sì. certa cadenza nel comportamento, eccetera. Però in particolare per Mincha, o anche per Arvit, magari cena. Normalmente non bisognerebbe cenare prima di Arvit, proprio per questo. Magari ha cenato prima di Arvit, ha fatto le sue cose, si è andato a letto, ah, non ha fatto Arvit. Può capitare. Comunque le halachot di chi non ha fatto apposta a non fare tefilà e il rimediare, eccetera, questo sarà in un prossimo capitolo, non adesso. Ora stiamo parlando dell'Amidah in generale. Era solo per dire l'orario. Allora, il secondo paragrafo dice così, che Shemegia le Teilot le Kel Elion, queste sono delle parole, Teilot Elion Baruch Hu, Baruch Shem, Shem Nisrael Hanushira, Besim Harabam, Ve'amru Kulam, arriva a questo punto della tefilà, poco prima dell'Amidah, ci si alza in piedi, Ya Amod, ci si alzi, Viachine tazmo e la persona si prepari per le tefilat Shemone Esre, per la tefilat dell'Amida. Shemone Esre, di 12, 18, benedizione. E cosa vuol dire si prepari? Primo, anche fisicamente, cioè Yassir Kicho Venio, Vechol Davar, Yassir Kicho Venio vuol dire si liberi la bocca dalla saliva, dal muco, del naso, così altre cose che può distrarre. E anche col davar a me balbelet machashavto, qualsiasi cosa che possa far distrarre il suo pensiero. E c'è scritto anche, qui non dice, però, di accertare che siano i vestiti a posto, tallet, tefilin, siano dritti, eccetera. Ve yelech gimel pesiot lachorav. E poi la persona fa 3 passi indietro, finché arriva a Gal Israel. Qui ci sono anche diverse usanze, chi fa i 3 passi dopo aver detto Gal Israel o prima di aver detto Gal Israel. Questo è in base all'usanza. Ve'az yachazor lefanav shalosh pesiot. E poi torna verso davanti 3 passi per indicare, per simboleggiare, derech kiruv ve'agasha lamelech, come per l'avvicinarsi e l'accostarsi al re. Quindi non si arriva così, boom, di botto. Piano piano i 3 passi sono come un modo rispettoso per accostarsi al re. Ora, quando la persona ha detto la berachà di Gal Israel, e questa seguente cosa l'abbiamo già indicata nel capitolo precedente, non si interrompe tra Gal Israel e l'inizio dell'Amidah. Anche se dovessimo sentire qualcuno che dice Kaddish, o Kedushah, o Barechu, non si interrompe. Lo yafsik ben Gaal Israel Shmone Esre, non si interrompe tra il Gaal Israel, la conclusione della benedizione dello Shema, e l'inizio dell'Amida, afilu le Kaddish, o Kedushah, o Barechu, persino per cose importanti come Kaddish, Kedushah e Barechu, poiché Mipnei she'tzarich le'asmich geula litfila, perché bisogna accostare la geula, Gaal Israel, la redenzione, la berachà della redenzione, con la tefila, cioè la Amida. Bisogna connettere le due cose. Verso il segno, ecco, vetov sheyetzamtzem ligmor birkat Gal Israel im shliach tzibur beshaveh. Ebbene, se possibile, fare in modo di concludere la benedizione di Gal Israel. Yetzamtzem vuol dire di essere precisi per cercare di concluderlo insieme all'ufficiante. Cioè, quando l'ufficiante finisce Gal Israel, cerca di stargli appresso quasi esattamente. Gal Israel insieme, in modo tale da iniziare. Cioè, per quale motivo? Ora lo spiego, o lo spiega. A parte il fatto di iniziare insieme l'Amidah, però c'è anche un altro fattore qua. E dice così: chi im yigmor hu techilah, se lui conclude prima la persona che prega, conclude prima Gal Israel e poi attende che lo shaliach tzibur, ve'achar kach shaliach tzibur, attende che l'ufficiante concluda, yesh safek, stiamo adesso in un dubbio, im ya'aneh amen al birkat shaliach tzibur o lo. Se abbiamo l'obbligo di rispondere Amen alla benedizione Gal Israel che recita il officiante o meno. Ok? Ma non c'è mai Amen qua. Perché dice rispondamento? Se lui ha già fatto la berakha, dovrebbe rispondere Amen alle No, se non ordini. c'è interruzione. Abbiamo detto che non si Quindi può c'è interrompere. Amen. Perché non si può? È vero, perché non si può interrompere? Stiamo rivalutando la cosa. In teoria non si può interrompere, perché no? Perché vogliamo accostare la No, Geulah alla questo. Tefilah. Questo è il motivo per cui non si Se no interrompe. dovresti. Ok? Però se no, dovresti interrompere. Allora, per evitare quel dovresti, che ti fa entrare in questo dubbio alachico, non dubbio tuo, rispondo o non rispondo, dubbio alachico, allora cosa fai? Concludi la Berachah insieme allo Shaliach Ah, ok. Tzibur, in modo tale che non rispondi a me, non solamente per non interrompere, ma anche per non rispondere a me a una tua stessa berachah, che normalmente non si fa. Ci sono delle eccezioni in cui tu rispondi a me a una Dice berachah però che tu l'elle. stesso fai. Tover nell'alel, alla fine dell'alel, Melech Mulal Batishbachot Sì. Amen, oppure nell'Ishtabach. Ishtabah E forse. qual è un altro esempio? Ah, quello dello Cioè, Shema. ah, scriviamo anche a sera il beat, no? ok, Quello sì, Shema, quello al di fuori nelle... della tefilà, Ah, di fuori? sì. Rispondere a me ad una Alla propria... propria. Ad Ah, una no. propria berakha? Vabbè, Birkat Hamazon c'è. Nella Birkat Hamazon, posso un attimino là? Come no, c'è. Voglio segnare qua un errore. Bravo. Yerushalayim, amen. Grazie. Ken, bonne berakha ma Yerushalayim, Amen. amen. Ok? Quindi normalmente però non si risponde ad una propria berakha. Allora dice... Aval, però... Keshehu gam ken gomera azeta berakha. Quando lui stesso anche conclude allora la berakha assieme allo Shelayach Tzibur, vadai lì è sicuro che è no tzarich lanot amen, che non deve rispondere amen. De en onin amen al birkat atzmo, perché normalmente non si risponde amen a una propria berakha. Ora dice una novità, ube mariv, cioè nell'arvit, כיוון שאין הברכה שלפני שמונה עשרה מסיימת בגאל ישראל, הברכה פרימה דלה עמידה. נלרווית נון קונקלודה קונגל ישראל. פרקי סידי שגאל ישראל, פוי סידי שאשכיבנו. די קונסגוונצה ג'אן נון צ'ל הקוסטמנטו טרל הגאולה, טרל הרדנציוני אלה תפילה. E perciò סידי סי פוי אינטרומפרה סידי ספונדה אמן צ'ל קדיש מותר להפסיק כמו בשאר מקום בין פרק לפרק. קומה סי פוי אינטרומפרה קומה quando si interrompe tra un brano e l'altro, ovviamente non per parlare della partita, ma per rispondere amen. Kodem Shemonesre, ora prosegue nella descrizione della preparazione per l'Amidah, quindi tre passi indietro un po' prima e poi ci portiamo avanti verso il Re con i tre passi avanti, e prima di iniziare l'Amidah stessa c'è un'altra cosa. Kodem Shemonesre, prima dell'Amidah, Omer HaPasuk, la persona, recita il versetto che dice Hashem sefatai tiftach ufi yagiti latecha. Giusto? Vuol dire Signore, apri le mie labbra e la mia bocca reciterà le tue lodi. Benissimo. Allora scusa se non possiamo interrompere tra la Stavo Amidah e la pensando bene. Geulah, Stavo Gal pensando Israel. Allora perché possiamo dire questo versetto che non è la Amidah, è un'introduzione alla Amidah. Giusto? Amida. riconoscere che Hashem ci Amida dà inizia questa con Baruch, possibilità. no? E riconoscere che Hashem ci dà questa possibilità. Grazie a lui che possiamo farlo. Allora, il motivo che dice qui, Veino Hefsek, non è considerata un'interruzione, chi ushayach la tfilah, perché è considerata una parte della tefilah. Cioè non per il contenuto, magari quello che tu dicevi Alberto è valido, ma non è questo il motivo per cui lui dice che si può interrompere. Lo dice che non conta come interruzione perché è come se facesse parte della Amidah stessa. Quindi invece se si volesse aggiungere un altro versetto, che per esempio a Mincha, prima dell'Amidah, si dice Kishem Hashem Ekra Avu Godel, oppure Masat Kapay Minchatarev, ci sono diversi versetti che si dicono in diversi riti, anche nel rito romano, prima dell'Amidah di Mincha. Lì si può aggiungere un altro versetto, perché? Perché non c'è nessuna berakha prima dell'Amidah di Mincha. Ugualmente a Musaf, anche diciamo qualche versetto, Hashivenu, eccetera, prima di Musaf non c'è nessuna berakha, allora non c'è problema ad aggiungere qualche altro versetto di introduzione all'Amidah. Ma nel Shacharit e nell'Arvit si aggiunge solamente Hashem Sefatai Tiftach perché non è considerata un'aggiunta, è considerata proprio parte propria della tefilah. Della Amidah, sì. Aval HaPasuk Kishem Hashem Ekra, mentre invece un altro versetto come Kishem Hashem Ekra o altri versetti, lo Yomar, questo non si dica che in Be Musaf u Be Mincha, Yomero, lo si dica solo nel caso di Musaf o Mincha, dove non c'è appunto una Berakha che precede l'Amidah, come Gal Israel, o come nell'Arvit, Kodem Hashem Sefatai Tiftach. E questi versetti vanno detti prima di Hashem Sefatai Tiftach, perché quello sempre fa parte della Amidah stessa. Ok? Benissimo. Ora, quando noi facciamo l'Amidah, bisogna rendersi conto davanti a chi ci stiamo ponendo in questa Amidah. Hamit Palel, colui che fa la Amidah, chi prega, Sarich Sheyeda, deve essere consapevole dell'idea Shashechina Kenegdo, che la presenza divina, la Shechina, gli sta davanti. Che Moshe Katuv, come è scritto, è detto nel Eicha, nelle Lamentazioni, Shifchi kamaim libech nochach pene Hashem. Riversa come fosse acqua il tuo cuore dinanzi al Signore. Cioè tu ti trovi davanti al Signore e puoi versare il tuo cuore, aprire il tuo cuore davanti ad HaKadosh Baruch Hu, ma sii consapevole che stai davanti ad HaKadosh Baruch Hu. E quindi deve cercare la persona di Ya'ir HaKavana, di risvegliare, intensificare la sua intenzione, il fervore, via sir kola machashavot hatordototo, e cercare di allontanare, di togliere tutti i pensieri che lo distraggono, ad shetishaer machashavto vekavanato zakabit filato, finché il suo pensiero e la sua concentrazione, la sua intenzione siano più pulite, più pure possibile durante la sua tefilà. Un metodo che dà, visto che è una cosa molto difficile e ci si lotta anche durante la Midah, non solo prima, con questa cosa, allora dice Veyachashov, la persona debba pensare che ilu hayam daber lifnei bal melech basar vadam, la persona deve tenere in mente, se io dovessi parlare adesso davanti a un re di carne e ossa, o davanti a un presidente, un primo ministro, mi distrarrei, vevadai ayam sader devarav, sicuramente avrei preso cura, messo ordine nelle proprie parole, umechaven behem yafe, e fatto molta cura nell'esprimerle, le bagli kashel, per non sbagliare, per non inciampare sulle parole, eccetera, eccetera. Kalva chomer, a maggior ragione, lifnei melech malchea melachim, ci troviamo davanti non a un re di carne e ossa, ma il re dei re dei re, HaKadosh Baruch Hu, shetzarich lechaven lefanav et machashavto, che a maggior ragione deve fare tutti gli sforzi per tenere la mente raccogliere i propri pensieri, diciamo, come traduce qui, ki lefanav itbarach shemo hamachshava kemo dibur, perché davanti ad HaKadosh Baruch Hu il nostro pensiero è come se fosse parola. È aperto davanti a lui il nostro pensiero come se fossero delle parole che abbiamo espresso. Ecco perché non è solo la recitazione delle parole dell'Amidah, ma è anche la predisposizione del nostro pensiero relativamente a quello che stiamo dicendo e davanti a chi ci stiamo ponendo. Chol ha-machashavot u-choker, egli scruta tutte le menti. Ve kodem ha-tefila, e prima dell'Amidah, anche in prima della tefilah in generale come preparazione, ma in particolar modo prima di iniziare l'Amidah, Yachashov, la persona rifletta, meromemuta kelit barach shemo, della grandezza, l'immensità del Signore, veshifluta Adam, e la bassezza, la piccolezza, così dire, dell'uomo, viasir kolta unige Adam melibo, e distolga dal proprio cuore ogni pensiero di piacere umano terreno, desiderio umano, per cercare di tenere la mente su la grandezza di HaKadosh Baruch Hu e appunto la piccolezza dell'uomo. Ovviamente, quando la persona sa quello che sta dicendo, questo lo aiuta. Ecco che la prossima voce lui dice, Hamit Palel, colui che prega, Tzarich Sheichaven Belibo, deve fare attenzione nella mente al Perush Amilot, al senso delle parole che sta pronunciando, Shumotzi Bisfatav, che pronuncia con la bocca. Shenemar, come detto, Tachin Libam Takshiv Osnecha, prepara il loro cuore, fa ascoltare il tuo orecchio. Quando il nostro cuore è preparato, cioè sa il nostro pensiero, allora l'orecchio di HaKadosh Baruch Hu ascolta. Qui dice una cosa interessante, Kvarnit Pesu Arbessi Durim in Perush Ashkenazi. Ci sono già molti libri di Tefilah tradotti in tedesco, perché ovviamente scrive per un altro pubblico. Però anche in italiano ci sono. Viachol kol adam, o intende tedesco, o intende yiddish. Viachol kol adam lil modu leavin mashu mitpalel. Ognuno può, ognuno ha la possibilità di imparare e capire ciò che sta dicendo nella preghiera. che abbiamo, grazie a Dio, le traduzioni anche chi non parla direttamente l'ebraico. Vime no yachol lechaven perusha milot, e se la persona per motivi di distrazione, di non so, di problema, qualsiasi situazione, non ha la possibilità quasi di, oppure non sa il senso e non ha la traduzione, non ha la possibilità di capire quello che sta dicendo e di, quindi di avere in mente il significato delle parole che sta pronunciando. Se non avesse questa possibilità, almeno, come minimo, kol ha-pachot, tzarich she-yachashov bishat ha-tfilah, deve pensare durante la tefilah, vidvarim ha-machni'im et ha-lev, pensare delle cose che lo aiutano a indurre il suo cuore all'umiltà, umechavnim et libole aviv shebashamayim, e indirizzano il suo cuore verso il Padre che sta nei cieli. In altre parole, se non c'è la possibilità di vedere una tradizione, di capire quello che sta dicendo, almeno comunque la mente sia, anche quando pronuncia le parole dell'Amidà, soprattutto sia su questi temi qua, come abbiamo detto prima, la piccolezza dell'uomo e la grandezza di Dio. Vim tavolo machshava zara betoch ha-tefila, se durante l'Amidà dovesse sopraggiungere un pensiero sgradito, sgradito non è necessariamente un pensiero negativo di per sé, potrebbe essere semplicemente un pensiero che non ha nulla a che vedere con l'Amidà, potrebbe essere anche una cosa bella. Succede sempre. Certo che succede sempre a tutti. Allora, yishtok, la persona può anche aspettare un attimino, tacere un attimo, rimanere in silenzio dell'Amidà, aspettare che il pensiero si dissolva. Ovviamente non lo fa da solo, tu devi attivamente cambiare pensiero, però puoi anche attendere un secondo, riprendere i pensieri e ricalibrare la mente e procedere nella Amidà. Ok, ancora una halakha. Come si sta in piedi durante l'Amidà? Yechaven raglav ze etzel ze. Bisogna disporre i piedi uno accanto all'altro, come se diventassero una sola, un solo blocco. Ze etzel ze ki ilu einan ela achat, come se fossero una sola gamba, un solo piede. Leidamot la malachim. Questo per essere simili agli angeli. Come è scritto, Veraglehem regel yeshara. Il profeta Yechezkel descrive che i loro piedi erano un piede diritto, un solo piede, ovvero un solo piede. Klomar raglehem ke regel achat. Era come se fosse un unico piede. Sembrava essere unito. Viachuf rosho, meat lemata, un po' abbassare la testa verso giù. Visgore nav shlo yistakel beshum dovar. E dice di chiudere gli occhi e non guardare nessun'altra cosa. Subito calibrando questa frase, vimit palel mitoch sidur, si prega da un libro, lo yassirei nav mina sidbur. Ovviamente chiudere gli occhi non vuol dire non guardare il libro. Se stai guardando il libro, però non distogliere lo sguardo dal libro durante l'Amidà. E qui descrive un'usanza che ovviamente non tutti mantengono, però la studiamo. Vianiach yadav al libo yimino al smolò, di mettere le mani sul cuore, la destra sulla sinistra, e così porli dove sta il cuore, diciamo, sul petto. Durante l'Amidà. Sì, c'è chi lo fa. Vitpallel belev shalem, e questo seguente sicuramente vale per tutti, si preghi con tutto il sentimento, con tutto il cuore. Be'ema ubeyira ubeachna'a, con timore, rispetto e umiltà, che ani ha'omed bapetach, come un bisognoso che si presenta alla porta. Ma questa è una cosa che si usa anche con lo Shema. Cosa? Mettere le mani vicino al cuore tuo, zizit. Vero, ma solo la mano del zizit, sì. Non tutte e due le mani come descrive qua, vero? Come un bisognoso, scusa, Shalom. Come un bisognoso che si presenta alla porta. Sì, sì. Se uno che chiede l'elemosina si presenta alla porta, come si presenta? Certo, con umiltà, con rispetto, con timore. Anche noi siamo come un povero che si presenta alla porta di Akadosh Baruch Hu, facciamo tre passi e bussiamo alla porta. Eccomi qua. E allora, è chiaro che... Abbiamo già dato. È chiaro che... E però questi sono... Bisogna porsi nella maniera giusta. Quello aiutano la cavana? Certo. Bravissimo. Se tutte queste cose... Se uno facesse... infatti stavo chiedendo proprio questo. Come che devi pensare ai tuoi rapporti con un re? No, ma se sono anche i fatti che ti aiutano. Sì. È vero, come anche questi comportamenti. Se stai così... Sì, l'azione ti aiuta. L'azione ti aiuta. L'unica cosa è il pensiero. È vero. No, ma io sto chiedendo proprio questo. Qual è... Convoglia il pensiero. Un segreto è questo. aiuta. Questo è uno dei segreti, non c'è garanzia. No, chiaro. No. Però... Anche perché se ti abitui a fare questo, diventa... poi ti abitui anche a quello. Quindi questo, poi di nuovo... questo che volevo chiedere, esatto. Esatto. Anche la velocità in cui leggi, se vai piano... Oh, poi concludiamo. Vitpallel kol echad kefi hanuscha shelo. Ognuno pronunci, preghi, secondo la propria... il proprio nusach, cioè il proprio rito, ok? En Ashkenaz, en Sefarad, vekadome, che sia il rito di Ashkenaz, il rito di Sefarad, il rito di Roma, eccetera. Kulam yesodatam beharere kodesh, tutte sono basate sui monti sacri, è un versetto che si usa per indicare che vengono da fonti giuste, tutti, uno non può dire il mio rito è più importante del tuo, ognuno deve seguire il proprio rito. Aval alie arev teivot minuscha lenuscha. Però non può la persona, non è permesso mescolare le parole di un rito con un altro rito. Vuol dire, se uno fa un rito, fa per intero un rito, senza mischiare un altro rito, perché in ogni rito la cosa è pensata in questa maniera. Se poi si mischia con un altro rito, poi non esce fuori un terzo rito in realtà. Che col nuscha, perché ogni rito te voteha menuyotus furot al piso dot gedolot. Ogni parola è contata secondo profondi misteri della Torah e della Kabbalah. Ven le hosifoli groa, e non bisogna aggiungere o togliere nulla. E concludiamo solo con quest'ultima cosa. Yizaher lit palel belachash, si pronuncia la midà a bassa voce. Rakshehu beatzmo yishma mashu amer. Ma comunque la persona stessa deve sentire quello che dice, quindi è una bassa voce, ma comunque le parole sono pronunciate. Bisbigliato. Cioè, se tu stesso senti, ma anche chi ti sta vicino, un po' vicino, non ti sente. Moshe katuv bechana, come è scritto riguardo Hannah, la madre di Shemuel, il profeta, che quando lei pregava con tutto il cuore, c'è scritto Rak sefatehan ot, solamente le sue labbra si muovevano, ve colà, e la sua voce lo yishama, non si sentiva. E in questa maniera noi anche dobbiamo fare la amidà, cioè pronunciare le parole, sentirle al minimo del sentire a noi, al nostro stesso orecchio, ma non deve essere sentito da altri. Ok, proseguiamo la prossima volta.